se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto. Massimo, possiamo centrare un posto in Champions. Chiedo a lei, che conduce una trasmissione così credibile, se io... Tutti convocati di Carlo Genta. Via, andiamo con il Gran Premio di Malesia che scatta adesso, scatta bene Sebastian Vettel a tenere la prima posizione, cerca Massa di mantenere la sua seconda con Alonso che si infila all'interno, Alonso che va adesso all'esterno di Sebastian Vettel, partito forte Alonso che quasi tampona, si è toccato con Sebastian Vettel, attenzione Webber adesso dentro a Fernando Alonso. In the firelight, Fernando. Abbiamo sfiorato la macchina di Vettel alla seconda curva e poi durante il giro io non sentivo la macchina troppo male, penso che dalla TV non era troppo il danno dell'alettone in quel momento, e sapevamo che al giro 3, giro 4 c'era da mettere le gomme d'asciutto, quindi se ci fermavamo al giro 1 e poi al giro 4 eravamo ultimi con abbastanza distacco. Ma è chiaro che a gara terminata è molto facile dire che è stato preso un rischio non necessario. Con Webber adesso deve andare sulla destra Fernando Alonso, no, non rientra in box, perché vuole aspettare che la pista sia per asciutto, per fare solo un pit stop, così non è svantaggiato con gli altri piloti, ma se l'ala si rompe sarà in grande difficoltà lui. Eccola che si è rotta, l'azzardo non ha pagato, finisce qui. If I had to do the same. Ciao a tutti, buona settimana. Franco Biantanini, dottore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Dunque abbiamo ripercorso il Gran Premio della Malesia, maledetto come il tempo che c'è in questi giorni. Ieri sembrava che tutti gli dei dell'Olimpo ce l'avessero col mondo. Allora mi sveglio tardi, mi conservo nell'ignoranza più totale, però il TG1... La domenica comunque si guarda e loro lo fanno ancora. Formula 1, Vettel su Red Bull, ha vinto il Gran Premio della Malesia. Per sapere come sono andate le Ferrari e qual è stato lo svolgimento della gara, tra poco su questa rete, al termine del nostro telegiornale, potrete seguire la cronaca di tutto il Gran Premio. Vabbè, se voglio sapere il nome dell'assassino vado subito all'ultima pagina. Poi dicono che la Formula 1 non è per tutti, ma questo non è vero. Perché ieri tutti potevano guardare la corsa alla solita ora, quelli che non sono malati, non si sono malati di agonismo, di adrenalina della diretta, non si sono svegliati alla mattina presto. Alberto Sabatini, direttore di Autosprint, buon pomeriggio. Ciao Alberto. Buon pomeriggio. Ma perché me lo dicono tutte le volte? Cosa? Chi vince la corsa sul TG1? Ma perché l'altra settimana il TG1, 5 minuti prima della differita della Rai, diede la notizia, fece un bel servizio e noi ad Autosprint siamo stati sommersi da mail di lettori arrabbiati che dicevano: ma quelli della Rai ci sono o ci fanno? Io mi ero tappato le orecchie per non sapere come andava a finire, questi me lo dicono sul TG1 prima della gara. Stavolta hanno capito la lezione, almeno hanno solo detto il vincitore, poi hanno rimandato. Sì. Dopo 5 minuti si sono incazzati tutti perché Alonso ha sfasciato l'alettone, Domenichelli non l'ha richiamata ai box e hanno girato. Non credo che avrà fatto molta audience il resto. 800 24 00 24, l'audience la facciamo noi e aspettiamo i nostri amici convocati. Senti direttore, due allenatori in discussione, due allenatori in rosso, uno è lontano da te perché è Sergio Scariolo, quello dell'Olimpia Milano di Re Giorgio Armani, che non vince più una partita e viene contestato dai quattro gatti che ancora vanno al forum. L'altro invece, che ti riguarda da vicino, è appunto Stefano Domenicali. I grandi allenatori sono quelli che riescono a capire un attimo prima quello che succederà. Allora, premesso che Scariolo ha allenato la Fortitudo a Bologna tanti anni fa e ha fatto benissimo con anche in Russia, premesso questo... Per non parlare del Real Madrid, della guida della Spagna, con cui ha vinto tutto quasi, eccetera, eccetera, uno degli allenatori più quotati d'Europa. Parentesi. Esatto. L'altro, la differenza è che Scariolo è l'allenatore, Domenicali non è l'allenatore. Mm. Domenicali, la gente dà a Domenicali le colpe di un ruolo che non è suo. Lui non è quello che siede al muretto box e fa le strategie, lui è il capo della squadra, lui è come se fosse il presidente della società che è in tribuna, non è l'allenatore che in panchina dispone i moduli di gioco e tutto il resto. Questo ruolo spetta agli ingegneri della Ferrari che si chiamano Pat Fry, direttore tecnico, e ad altri personaggi che fanno gli strateghi, all'ingegnere di pista di Alonso che si chiama Andrea Stella, che segue il suo pilota via radio e dialoga costantemente con lui. Sono loro quelli che hanno concordato col pilota la strategia, l'idea di stare fuori nonostante l'ala che si stesse spezzando, e sono loro che alla fine hanno sbagliato con lui. Però va detta anche un'altra cosa, che in Ferrari chi comanda nelle strategie è Alonso stesso. Alonso è pilota e allenatore in campo di se stesso. Sì. Mentre nelle altre squadre abbiamo sentito il Gran Premio, abbiamo sentito Ross Brawn, il capo della Mercedes, ordinava a Rosberg di stare dietro Hamilton, di non superarlo. Abbiamo sentito quelli di Red Bull che davano un ordine a Webber di ridurre la potenza del motore e poi polemizzavano con Vettel che l'aveva superato dicendo hai fatto una cosa sciocca, poi quando torni ne riparliamo. Sì. In Ferrari Alonso ha un'autorevolezza e riconosciuta dall'intera squadra che ha sempre detto che lui ha una visione di gara eccellente anche stando in macchina, per cui è lui che prende le decisioni, viene confortato dalla squadra ma alla fine le decisioni le prende lui. E quindi la colpa è sua dello sbaglio. La colpa è sua, tu dici. Direttore, ti chiedo un attimo di pazienza, Alberto Sabatini, direttore di Autosprint, un attimo di traffico che riguarda comunque sempre motori, anche se diversi, e poi vorrei sottoporti un argomento che tu hai accennato ora e che mi fa impazzire, cioè Webber che si lamenta. Traffico. Così non è svantaggiato con gli altri piloti, ma se l'ala si rompe sarà in grande, grande difficoltà lui. Eccola che si è rotta! Eccola che si è rotta! L'azzardo non ha pagato. Tutti convocati. Tutti convocati, Formula 1 e altro, poi parliamo anche di Nazionale e di Balotelli, perché in una domenica senza calcio, senza personaggi, con la Ferrari che va fuori subito, in Nazionale hanno avuto la intuizione, quantomeno, di mandare in conferenza stampa uno dei pochi personaggi veri che ci sono in giro. 8-0024-0024, perché siete sempre così bravi il giorno dopo non vi fate pena? No, caro Paolo, non ci facciamo pena, perché noi siamo qui apposta per commentare il giorno dopo. Magari se chiama lo fa anche lei. 8-0024-0024. Alberto Sabatini, direttore di Autosprint. Allora, se c'è una cosa che mi fa impazzire sono le scuse di Webber. Vettel perché gli deve chiedere scusa? Il confronto diretto è il senso dello sport e quindi io applaudo Vettel che ieri ha fatto un magnifico sorpasso. Tutti noi applaudiamo il duello che si è generato tra Vettel e Webber. Uno poi lo può pensare in un modo o nell'altro, insomma è stato un duello bellissimo che all'inizio pensavamo fosse dovuto al desiderio di competere di tutti e due. In realtà abbiamo scoperto dopo che a Webber la squadra aveva dato l'ordine di ridurre la potenza del motore, che è un ordine in codice, loro come tante squadre usano termini in codice, a Webber avevano detto l'espressione multiventuno, che è la posizione del manettino sul volante che lui doveva selezionare per il consumo di carburante. Sì. È un modo indiretto per dire vai più piano. Vai più piano vuol dire le posizioni sono congelate. In effetti la Red Bull cosa ha fatto? Ha lasciato i piloti liberi di correre con due strategie diverse. Dopo l'ultimo cambio volo, a 12 giri dalla fine, Webber è sbucato fuori di 200 metri, 50 metri davanti a Vettel, quindi ha mantenuto la prima posizione. A quel punto la squadra ha detto restate così, ha detto a tutti e due più o meno restate così. Sì. Webber ha rallentato, diciamo all'ordine che gli è stato dato di risparmiare carburante. Vettel se ne è fatto, l'ha attaccato e l'ha superato. Webber non ha provato a replicare e invece si è lamentato a stadio e poi si è lamentato a corsa finita. Sì. Ognuno può pensarla come vuole, insomma. È vero, pure per un pochino hanno inscenato una bella battaglia, sì, che sembrava anche corretta. Io credo, sono dell'opinione, che gli ordini di squadra sono un'ipocrisia che nelle corse non ci dovrebbe, non dovrebbe esistere. Però è anche vero che è la squadra che paga i piloti, li fa correre, quindi deve, vuole pretendere da loro una, così, un comportamento adeguato a quelli che sono i loro interessi. Questo è vero, basta patticchiare amicizia lunga, basta capirlo prima, no? Se uno, e soprattutto, secondo me, sono cose che dopo la metà del mondiale i giochi di squadra possono anche essere fatti. Se due piloti lasci liberi di correre, allora devono interpretarla alla loro maniera. Un'ultima cosa, direttore. Sì, prima, aspetta, diciamo che la squadra aveva solo il terrore che i due si toccassero, certo, come è successo peraltro 3 anni fa in Turchia proprio tra loro due. E questo è assolutamente legittimo perché la regola numero uno naturalmente deve essere quella, cioè quella di fare il risultato della squadra. Poi detto questo, se due galli li lasci combattere nel pollaio, alla fine che più forte vince, il più forte è Vettel, non ci sono dubbi. Sì, senti, c'è anche un problema, scusami, di personalità. Ma chiaro che c'è un problema di Vettel personalità. Vettel è un vincente, come tale Webber è un bravo perdente. Certo. È prepotente, duro, egoista, è un po' come Alonso, peraltro. Alonso sì, non accetto una mozzarella, insomma. Webber è una pilota della vecchia guardia, una persona, un ragazzo simpatico, uno con una bellissima, grande lucidità di analisi, non è un campione completo come Vettel, forse troppo anche buono e gentile, rispettoso, e gli manca quella grinta, quella cattiveria fatta anche di voler soverchiare comunque qualsiasi persona vicino a lui, che sia amico o avversario, e che fa poi la differenza. Ma è ovvio, questi sono quelli che perdono i mondiali, quelli come Vettel sono quelli che li vincono. Grazie Alberto, grazie direttore. Esatto, grazie a voi, arrivederci. Grazie Alberto Sabatini, direttore di Autosprint. 800 24 00 24, il numero verde. Cosa avete fatto ieri pomeriggio, ragazzi? Perché, cioè, sinceramente, a Serie B di calcio va bene, la guardiamo. Allora, Serie A non c'era, Gran Premio ci hanno detto il risultato prima. Ho visto Sagan fare un numero pazzesco alla Gabbevelgem alzando la bicicletta sul traguardo coperto di pioggia, ed è già uno dei miei idoli. 800 24 00 24, Riccardo Bologna, buongiorno. Mentre Davide su Twitter ieri ha bombardato il TG1 di proteste per questa gaffa, ma come si fa 5 minuti prima del via l'hanno detto. Vabbè, Riccardo. Salve, allora io non ero proprio d'accordo, per cominciare, con il commento del direttore sul fatto della responsabilità, che nonostante che sì, in effetti in Ferrari ci siano, come in altri casi, tutti i capi meccanici, direttori tecnici, però io ho notato... Però c'è un capo del muretto, sì, lo penso anch'io. Certo, c'è un capo del muretto, cioè io poi non sono titolare d'azienda, quindi so cosa vuol dire. Cioè, no, ma è anche Riccardo, scusami, è anche uno che ci mette la faccia, no? Cioè, esatto, che ci mette la responsabilità, perché sennò c'è qualcuno che si piglia la responsabilità. Insomma, Alonso va in pista e guida, se poi deve anche decidere strategie... Esatto. Diventa difficile, certe volte è come venire qui a parlare ad un microfono, no? Io ho Franco Piantanida, che è un magnifico collaboratore, però alla fine gli insulti me li becco io, la faccia ce la metto io, oltre che la voce. Esatto, no? Esatto. Io sono d'accordo con te pienamente, e infatti io ieri sinceramente do la colpa a Domenicali per non aver gestito il rientro, perché quello era un rientro da fare assolutamente, era impossibile, non ho mai visto un alettone reggere per dei giri quando è staccato in quella maniera. Mai si sarebbe potuto, cioè magari lui dice dopo sarebbe partito dall'ultima posizione, sì, ho capito, però c'era una gara davanti, no? C'era una corsa davanti. A volte le gare sono fatte anche di episodi, quindi non si sa mai, secondo me qualche punto male che vada l'avrebbe preso a casa, quindi sono di questo parere. Sì. Per quanto riguarda invece l'incidente, io non so, provo di buttare un sasso nel macero. Nel senso che io ho notato, mi piacerebbe di vedere la telemetria di Vettel, non ce l'ho. Perché io, mi manca. Io lo chiamo trucchetto perché quel trucchetto di dare un colpo di acceleratore all'indietro in curva, io l'avevo visto dal suo maestro di Vettel, che io adoro, che è Michael Schumacher. Sì. Quindi io sinceramente una macchina vorrei vedere la telemetria per vedere se ha fatto lo stacca-attacca. Guardi, chi lo conosce. Sì, ho capito che cosa vuole dire, ma la telemetria non ce l'abbiamo. C'è chi ci dice che ieri io la ringrazio Riccardo, grazie, anzi ti do del tu, perché siete tutti convocati, da uno a mille anni, sempre qui, 800 24 00 24. Sono banale? Chi sei che mi scrivi questo? Chiamami, ne parliamo. Allora, dicevamo, Roberto da Trieste. Pronto, buongiorno. No, allora. No, stavo dicendo una cosa che poi mi sono perso, però voglio ripeterla. Questo messaggio di Roberto da Padova, per Radio 24 domenica mattina al Radio Giornale, ha detto che non sono andato fuori al primo giro, si predica bene, si razzola male. Roberto, noi diritti dei Gran Premi non ce li abbiamo, non li facciamo vedere, non li commentiamo per radio, perché altrimenti avessimo anche la differita, bah, non lo so, io il risultato non lo direi, state con noi che tra poco vi racconto il Gran Premio e poi ve lo racconto, ma questa è la mia opinione, mentre il nostro dovere, ovviamente, come di tutti quelli che sono nella nostra condizione, è di informare il più velocemente possibile. Roberto, 800 24 00 24, dicevamo. Allora, mi sento convocato. Sempre e d'altra parte, come tutti gli italiani, mi sento anche un mister e volevo suggerirti di convocare il grande Leo Turrini. Leo Turrini, ma lo convochiamo molto spesso e sempre con grande piacere. Il problema è oggi, ad esempio, era diffuso orario, l'impressione. Ah, ho capito. Va bene. Assolto il mister. Allora, due cose sulla gara di ieri. La prima, volevo segnalare che sì, anch'io sarei dalla parte di Webber, perché pacta servanda sunt, cioè se si stabilisce in squadra che ecco, allora devi stare. Però la seconda domanda, la seconda osservazione che faccio è se a fine campionato Vettel dovesse vincere con un punto, due punti, è chiaro che il risultato di ieri sarebbe visto su una luce diversa, no? Sì. Ieri è stato un Roberto, ieri è stato un duello, ma lo diceva anche prima con molta più eleganza Alberto Sabatini, direttore di Autosprint, tra chi ha le palle e chi ne ha meno. Perché okay. Ieri perché è così, perché Vettel ha la cattiveria dei vincenti, Webber non ce l'ha. Sì, però Vettel ha approfittato del fatto che Vettel approfitta di tutto per vincere. Alonso non lo fa mai passare su quel muro, Ma chiaro, Alonso non lo fa passare mai, ma infatti no, ma Alonso è un campione. Massa, vediamo. Compagno di squadra. Massa, vediamo. Va bene. La seconda osservazione che faccio è che noi parliamo sempre male della Rai, calcio nazionale, domenica sportiva, tutto quello che vuoi. Io però no. Onestamente, se devo dire la verità, la prestazione Rai sui Gran Premi è superiore a quella di Sky. Sì, ma io non, assolutamente questo non lo discuto. Allora, il principio da cui parto è che non è vero che la Formula 1 non è per tutti, perché la Rai fa vedere tutti i Gran Premi, Sky ha un'esclusiva per la diretta di 9 Gran Premi, mentre sugli altri verranno fatti vedere in diretta anche sulla Rai, e quindi i Gran Premi chiunque li può guardare. No? Certo. Poi se io dico il nome dell'assassino del mio libro, non lo so, e scrivo un giallo e dico il nome dell'assassino del mio libro, quindi tanto vale guardate l'ultima pagina, non lo so, è semplicemente una mia opinione, è una mia opinione mia. Ormai di Carlo Genta con internet è tutto relativo, cioè... lo so, ma se uno vuol saperlo ha mille modi, però sarò all'antica, però se guardo una partita io, se so il risultato, mi ammoscio, no? Non voglio saperlo il risultato, mi mantengo in una rispettosa ignoranza, è semplicemente questo. Grazie. Trieste è una delle città più belle d'Italia, delle mie preferite, ma anche Venezia. Andrea, buongiorno. Ciao Carlo, grazie della convocazione e grazie che mi fai sempre compagnia nelle mie trasferte lavorative. A te. Senti, una cosa su Scariolo, penso che sia vergognoso che ieri non abbia dato le dimissioni dopo due sconfitte dopo una stagione vergognosa e comunque dopo due sconfitte come Cremona e Montegranaro, che forse messe insieme costano il massaggiatore dell'Armani Jeans. Ma io ho letto che Montegranaro costa quanto un americano dell'Armani, costa quanto Langford, l'intera squadra. Non so massaggiatori o quali altri. Se Scariolo va avanti avrà le sue ragioni. È chiaro che alla fine poi i conti prima o poi bisognerà farli. Il presidente Livio Prolli ha detto: se avesse dato le dimissioni ne avrei preso atto. È chiaro altrettanto che in un campionato completamente impossibile da leggere, almeno per quanto riguarda il risultato finale, questo può anche essere un valore aggiunto, l'Armani, che è la squadra, che è la Ferrari del campionato di Serie A italiano, non sta certamente andando bene, ed uso un pallido eufemismo. Tutti convocati. La maglietta dell'Inter col Barcellona non lo rifarei, quello non lo rifarei. Se mi succedesse di nuovo, questo non lo rifarei. Poi tutto il resto, sì. Tutto il resto, sì. Io non sono mai stato un montato. Se in questi giorni c'è un'immagine di Mario montato, l'avete fatta voi, non l'ho fatta io. Io ho fatto la mia partita col Brasile e ho fatto un gol col Brasile. E ripeto, da tanto che gioco così e mi sento bene e lavoro bene, quindi la mia potenza, la mia forza la so io e non ho bisogno di darmi voti o paragonarmi a grandi campioni. Ringrazio chiunque l'abbia detto, ma non mi reputo né tra i più forti né tra i più scarsi. Io sono io, vedo in me stesso un miglioramento e cercherò di migliorare sempre di più, ma comunque ringrazio chi dice questo, ma non giudico queste cose qua che dicono. No, io sono d'accordo con lui. Sì, il razzismo è un problema grande. E se non si combatte tutti insieme non si riesce a sconfiggere. Magari è un fenomeno. I grandi campioni sono sempre ben accetti in una squadra, sicuramente sì. Dunque, in una domenica di inizio primavera, ma non se ne è accorto nessuno, in una domenica delle palme con un giorno da cani, Gran Premio, ci hanno detto il risultato prima, poi l'abbiamo visto e ci siamo pure arrabbiati, e per fortuna in nazionale hanno avuto la brillante intuizione di mandare in conferenza stampa Mario Balotelli, che tutti dicono se ne parla troppo, ma ben venga, è il personaggio del momento. Marco Ansaldo, mio amico, nonché inviato di prestigio della Stampa. Ciao Marco. Ciao Sergio. Sei d'accordo? Sì, sì, sì. No, dicono parlate sempre di Balotelli, continuamente di Balotelli, di cosa dobbiamo parlare? Abbiamo talmente pochi personaggi e talmente pochi potenziali campioni e talmente pochi personaggi che dicono cose interessanti come Balotelli fa, che alla fine di questo si parla. Beh sì, poi soprattutto parliamo spesso di Balotelli, ma quasi mai con Balotelli. E quindi questa è stata l'occasione almeno per sentire la sua voce e le sue risposte, invece di seguire un pochettino le nostre, così, le nostre idee, nel nostro modo di pensare su di lui. Quella è stata un'intervista, quindi una cosa diversa. Qual è il tuo pensiero su Balotelli? Ma il mio pensiero su Balotelli è che bisogna andarci cauti perché io ricordo, ormai seguendo la nazionale da troppo tempo, che anche su Cassano si diceva, o tutte le volte diceva, Cassano è cambiato, è il nuovo Cassano, in realtà Cassano è rimasto quello di sempre. E quindi c'è il rischio che anche Balotelli prima o poi si riconfermi quello di altre volte. Però il ragazzo mi sembra molto diverso da Cassano. Bravo. Mi sembra che sia un ragazzo che si è fatto una specie di corazza, di diffidenza, perché si è sempre buttato in mezzo, anche con il suo contributo, a polemiche che poco avevano da fare con il calcio, ma che quando, andando bene le cose, si parlerà di lui soltanto di calcio, non se ne potrà che parlare bene, perché secondo me comincerà è l'unico talento vero tra i giovani del calcio italiano, uno dei pochi talenti veri del calcio internazionale e comunque uno dei rari calciatori della sua età che può far vincere una partita da solo. E quindi questo convincerà anche Balotelli, che in fondo l'opinione pubblica e la stampa non è poi così tutta cattiva nei suoi confronti, quindi immagino che un pochino sia per, non sarà mai il compagnone, però insomma diventerà una figura, diciamo, più normale di gestire. Sì, io sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che è totalmente fuori luogo il parallelo tra Cassano e Balotelli, perché sono due personaggi molto diversi. Ma tu hai cambiato la tua opinione su di lui? Io no, perché è un giocatore che mi ha sempre emozionato. Poi al di là di quello che ha fatto fuori dal campo, che mi interessa relativamente. No, quello anche ha una sua importanza, perché poi alla fine quello che fai fuori dal campo incide sul campo e lo si è visto a Manchester. Però devo dire che adesso qua sembra facile dirlo, ma allora se eravate tutti d'accordo che era questo fenomeno, com'è che venivano poi queste cose? Però sì, anch'io devo dire che dal punto di vista del calciatore ho sempre pensato appunto fosse uno dei pochissimi in grado di vincere una partita da sola. Mi ricordo una partita dell'Inter, quella in cui lui poi alla fine litigò perché Tono gli aveva fatto tirare un rigore, sì, sì, sì. Che quando, quando poi gli argentini gli dissero di starsene calmo e cominciare a giocare, lui cominciò a giocare veramente, e fu uno spettacolo. E quindi lì capì che era veramente uno in grado di fare le cose importanti, e lo sta confermando poi anche con il fuori, perché insieme allo splendido gol contro il Juve c'è stato degli errori molto forti a gravi, sì. Ma non ha importanza, cioè l'importanza è che poi lui abbia dato l'impressione di essere quello che diceva: bene ragazzi, date la palla a me, poi dopo andiamo, sì, a discutere. Sì. L'ultima cosa che ti chiedo, Marco, ieri avete provato a farlo parlare anche di politica, al di là delle storie sul razzismo che secondo me sono in molta parte demagogia, in molta parte demagogia. Ha detto anche in Italia, che in Italia è un casino, l'ho capito anch'io, spero trovino un accordo, se avessi le capacità per fare qualcosa lo farei. Io ho visto il film, l'ultimo film di Claudio Bisio dove fa il Presidente della Repubblica per caso, e queste dichiarazioni mi hanno fatto venire in mente Bisio, Giuseppe Garibaldi eletto Presidente della Repubblica per caso, e che posso dirti satira. Che quello per fortuna è un film, non vorrei Bravo. Mai per quanto questo sia un paese che ormai sta sprofondando nel ridicolo, sì, non vorrei mai che il povero Balotelli venisse un giorno incaricato di ecco, fermiamoci per Presidente della Repubblica. Questi a fare il calciatore che lo sa fare molto bene e potrà farlo molto meglio ancora in futuro. Nell'evangelizzazione di Balotelli fermiamoci lì. No, adesso ancora poi diremo che cammina sulle acque. È un ragazzo di enormi potenzialità, è un ragazzo di cui non bisogna dimenticare comunque le sciocchezze che ha combinato fino a pochi mesi fa. Sono convinto che stando in Italia e soprattutto al Milan, dove sono abituati a gestire anche dei personaggi non comodi, sì, potrà avere un inquadramento per quanto possibile, potrà raggiungere il suo equilibrio anche interiore, che gli farà solo bene. Però calmi, adesso i guru sono altri, i guru sono altri, e ne vediamo e ne sentiamo anche di, e magari ne facciamo anche a meno. Marco, buon viaggio verso Malta, come Casareggio, insomma. Buon viaggio verso Malta, dove c'è una squadra che sembra, dice Prandelli, più organizzata del Brasile. Vabbè, non vince in casa da 41 anni di qualificazioni mondiali. Vabbè, ciao Marco. Ma comunque condivido, guarda che il Brasile è la squadra che da un punto di vista dell'organizzazione di gioco è un disastro. Poi capisci che avendo quei giocatori si può permettere. Ciao. Ciao Marco, buon viaggio. Grazie a Marco Ansaldi, inviato della stampa. Adesso aspetto voi, 800240024, e stiamo sempre lì a discutere. Come Marco su Twitter, non capisci nulla, c'è un ordine di scuderia, non conta che ha più carattere. Sorpasso di Vettel sul compagno di squadra, secondo me nello sport invece conta come alla faccia di ordine di scuderia, perché secondo voi, se quell'ordine l'avessero dato ad Alonso o a Vettel, come sarebbe finita? Come è finita ieri? Non credo proprio. C'è anche chi scrive, e fatelo, sulla mail tutticonvocati@radio24.it. Enzo da Messina: Ferrari strategia assurda, rischio troppo alto anche per Alonso, sono d'accordo. E poi scrive sempre Enzo: come assurdo sorpasso di Vettel su Webber, che nessuno punisce, tentato omicidio. Ma in che film? Ma Enzo, ma stiamo scherzando? E Rosberg, troppo buono e simpatico, che non sorpassa Hamilton, tentato omicidio, conviene guardare dei film più che dello sport, no? Cioè, secondo me quello è il senso dello sport, è un pilota più forte con una macchina equivalente che ne supera uno più debole, con meno grinta, un vincente contro uno che evidentemente non lo è. Poi Dani da Piacenza, ricordiamo con le voci anche il Volley Piacenza, che ha vinto una Coppa Europea ieri ed è stata una delle notizie di questa domenica. Lino Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo fare una dichiarazione da interista. Sono rimasto veramente molto contento della dichiarazione di Balotelli, che si pentiva di aver gettato la maglia allo stadio questa cinque giorno, a differenza di tanti che sono degli interisti, ce l'hanno assolutamente tutti con lui. C'è chi come me e molti altri lo ha comunque sempre amato, rispettato. Oggi fa piacere sentire queste scuse. Bravo, ha ragione. È un grande giocatore, ha fatto tanto, e anche se ha cambiato squadra, purtroppo è andato nella peggiore, poteva scegliere. Ci sono tanti come me che continuano ad ammettere che è un grande, è stato anche da noi un grande. Fa veramente piacere. È un grande talento, poi un grande giocatore, secondo me lo diventerà, ne sono certo. È un grandissimo talento, è un personaggio, ed è indubbio. E lei ha ragione quando dice che quella dichiarazione è la più importante, perché a me, sinceramente, la penso in maniera un po' diversa da Marco Ansaldo. A me interessa pochino quanto ha fatto fuori dal campo, perché certamente non è un esempio da imitare, perché i giocatori non sono un esempio da imitare. Quel gesto invece è un gesto da giocatore di calcio maleducato, e Balotelli ha fatto benissimo, è stato molto intelligente a chiedere scusa di quel gesto. Io che è rimproverabile da chiunque e a prescindere dalla squadra di appartenenza. Quello è un gesto da giocatore maleducato e lui ha fatto benissimo a chiedere scusa. Quanto fa fuori dal campo, sinceramente, a me riguarda poco, a me interessa poco. Tutti convocati. 800 24 00 24, il numero verde. Non capisco cosa c'entra questo messaggio. Balotelli solo in campo, nella vita non vale niente. Cassano ha due bambini, una compagna. Il calcio non dura per sempre, dovete dirglielo a Balo. Ma cosa c'entra questo? Cassano è un uomo di 30 anni, ha bruciato gran parte del suo talento, speriamo che non bruci il resto. Balotelli è molto più giovane, non sopporto il paragone tra Balotelli e Cassano, semplicemente perché secondo me è sbagliato. E io spero che invece Balotelli il suo talento riesca a sfruttarlo nella maggior percentuale possibile. Allora, ascoltatori, Vittorio da Padova, buongiorno. Buongiorno Genta, intanto le faccio i miei più vivi complimenti perché ha sostituito in modo degno Garanzini. Grazie. E le auguro ancora buona fortuna. Per quanto riguarda la RAI, che durante il TG1 dice il risultato del Gran Premio, io la penso un po' diversamente da lei. Cioè? Perché? Ma secondo me è uno che sa che il Gran Premio è alle ore 14 in differita alla RAI, si isola completamente e poi alle 14.05 accendi il televisore e guardi il Gran Premio. Ho capito, però se io voglio sapere cosa è successo nel mondo, cioè io il TG1 lo guardo. Ma però allora scusi, se mi dicono tra due minuti parte la corsa, state con noi che ve la facciamo vedere, insomma. Io guardo il TG1 e poi mi guardo anche la corsa senza sapere com'è andata. Tanto se voglio sapere com'è andata, ho mille modi, no? No, appunto per quello lo dico, no? Se allora io non voglio sapere il risultato, io mi devo isolare tutto il mattino da radio, da internet e da quant'altro che danno il risultato. Allora io so che devo per forza di cose rimanere isolato, alle 14.05 inizio a guardare la televisione. Io la penso così. Sì, no, va bene. Il mondo è bello perché ognuno ha le sue idee. Certo, Vittorio, ma certo. Cioè, si chiude nel bunker antiatomico in modo da non avere nessuna influenza. Sì, comunque resta un discorso di lana caprina. Il discorso è che ci lamentiamo che la Formula 1 non è per tutti. Quando questo non è vero, perché tutti possono guardare le corse, se non magari in diretta perché non si vogliono pigliare l'abbonamento a Sky o per mille altri motivi, allora se la guardano sulla Rai. Io se guardo un evento sportivo tendenzialmente preferisco farlo senza sapere il nome dell'assassino, cioè chi ha vinto, qual è il risultato, semplicemente questo. Adam, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno signore, grazie per farmi partecipare, diciamo, visto che stavate parlando di Balotelli. Sì. Ecco, io vorrei dare un po'. Lei di dov'è? Io sono di nazionalità senegalese. Sì. Ecco, ho dato anche il nome di mio figlio a Balotelli. Cioè? Visto che è una persona, ha chiamato suo figlio Mario? Mario Balotelli. Ti fa ridere, no? Mi piace molto. Sai. Sì, ecco, io visto che stavate parlando di Balotelli, sì, ho chiamato per dare un po' la mia opinione. Sì. Io ritengo che Milan è stato fortunato di avere un giocatore come Balotelli, finalmente il giocatore che gli mancava da tanto. Vero, è vero. Ecco, cioè, Balotelli è un giocatore il migliore, diciamo, dei suoi tempi, di questi tempi, il migliore attaccante di questi momenti. Sì, diciamo. italiano di sicuro. Senta, Adam, mi perdoni, ma lei il suo bimbo l'ha chiamato Mario o Mario Balotelli? Mario Balotelli. No, veramente? Veramente, Mario Balotelli. E allora qui ci vuole, faremo in modo di farle avere un autografo quantomeno di Balotelli. Sì, faremo in modo, ma facciamo in modo di farglielo sapere, insomma. Senta, mi perdoni ancora, Balotelli parla, qui non c'entra, parla spesso, l'ha fatto anche Boateng, di razzismo e di queste cose. Lei è d'accordo con Balotelli o no? Sì, sono d'accordo con Balotelli. Cioè, esiste un problema? No, non esiste nessun problema. Perché anche non ha detto niente di male su queste cose qua. Secondo me, cioè, parlare di razzismo adesso, il mondo di oggi, per forza che deve essere sempre queste parole qua, perché i tifosi non è che parlano questo per razzismo, no? Cercano di destabilizzare, anche questo il pubblico di adesso deve capirla. Non stanno parlando proprio di razzismo, però cercano di destabilizzare la persona quando gioca non farla partecipare del gioco. No, ma certo, però Adam, io la ringrazio e prometto che farò quanto posso per farle avere quantomeno un autografo di Balotelli per il suo bambino. Speriamo. Il motivo della chiamata era solo per dire questo. Grazie. Per dire grazie anche questo, grazie, sì. E un abbraccio soprattutto al suo bimbo, Mario Balotelli. Si chiama così. Grazie Adam dalla provincia di Varese. Adesso c'è Gio da Crema che a Vettel avrebbe spaccato il casco in testa. Beh, allora Gio, tu sei un agonista come Vettel, no? Un po' meno invece lo è il suo compagno di squadra. Dunque, altri sport. Allora, altri sport. Prima parlavo di un allenatore rosso, in rosso, pesantemente in discussione insieme a Domenicali, anche se il parallelo è inesatto ovviamente perché i ruoli sono diversi. Sergio Scariolo, che ieri ha perso ancora in casa con Montegranaro, e poi sentiamo Gigi Gresta sempre a proposito di basket, e sentiamo Papi che ha vinto con Piacenza la Challenge Cup. Non ho mai avuto una squadra con una differenza tanto grande fra come si allena e come gioca. E quindi purtroppo la relazione fra come si lavora in settimana e come si gioca la domenica non è un'indicazione utile. Adesso io gli altri risultati non li so nemmeno di preciso, mi viene da dire che non vi parlerò più di salvezza. Su questo inizio Oh, poi magari retrocediamo e ci ricordiamo questo momento qua, però se retrocediamo mi faccio frate, ok? Vabbè, prima di questa secondo me il livello delle squadre che abbiamo incontrato era veramente basso. Uffa è una squadra che a nomi è forte, però non lo ha dimostrato in campo, solo il terzo set là abbiamo un po' rischiato, sennò c'è stato un dominio nostro. Meglio per noi perché vuol dire che eravamo talmente concentrati e abbiamo giocato su altissimi livelli. La dedica a Vigor Bovo che sicuramente ci avrà guardato e io e Zlati ci siamo detti non potevamo perdere oggi perché era il giorno che è un anno che Bovo manca a tutti. Grandissimo Samuele Papi nel ricordo di Bovolenta dopo aver vinto questa Coppa con Piacenza. Abbiamo sentito Gigi Gresta, allenatore della Cremona del basket, che dice: se retrocediamo mi faccio frate, una dichiarazione divertentissima. Abbiamo sentito Sergio Scariolo che ha detto: non ho mai visto una squadra con così tanta differenza tra come si allena e come reagisce in campo. Ma la responsabilità di questo, Sergio, di chi è? A Fabio invece dico: ordini di scuderia, chi se ne frega fuori dal campo, chi se ne frega, ma lo sport è questo. Fabio, lo sport è il campo e la pista. Sulla pista secondo me gli ordini di scuderia valgono fino a un certo punto, sulla pista conta chi è più forte e chi meno, come sul campo, come nello sport. Fuori da quello che succede lì, sinceramente, sono questioni da rotocalchi per me. Stefano da Perugia. Sì, salve, complimenti innanzitutto per il programma e grazie. Volevo intervenire appunto su questo fatidico sorpasso, visto che sono un appassionato di Formula 1 e la seguo da molti anni. E volevo dire, probabilmente, secondo me, visto che gli ordini, i famosi ordini di scuderia erano abbastanza chiari, Vettel si è, diciamo, un po' approfittato di questo fatto. Webber, magari essendo davanti, sapendo che doveva comunque sia star davanti, non tirava. E Vettel ne ha approfittato e l'ha sorpassato. Sì, ma certamente ha fatto il furbo, ha fatto il cattivo, è rimasto sorpreso, però è per quello che l'ha passato, perché altrimenti. Questo non lo so. Io mi domando però, a parti invertite, Vettel come sarebbe comportato? Secondo me non avrebbe fatto passare nessuno. Però dico, se ad esempio prendiamo il caso di Massa, se Massa avesse fatto una cosa del genere ad Alonso, la gara successiva avrebbe corso della rosa. Mi sembra che se in una squadra viene data parità di grado ai piloti, come è sempre successo alla Red Bull, allora la parità di grado deve valere. Alla Ferrari c'è il pilota più forte del mondo, con il budget più importante del mondo, e lì che conta è vincere il mondiale e vincere il Gran Premio. L'unico che lo può fare è Alonso, secondo me. Al volo Ivano da Monza, perché dobbiamo chiudere. Dica. Ciao Carlo, sono Ciao, convocato? Ivano. Convocatissimo come sempre. Dimmi al volo. Ascolta, niente, il discorso su Vettel era non soltanto un ordine di scuderia, ma c'era stato nel briefing anche il fatto di non dover passare la riga bianca, sì, in corrispondenza del muretto, cosa che è stata fatta. Ai tempi passati e Schumacher non è stato fatto passare, ad esempio, a livello regolamentare un comportamento del genere. E poi c'è un illustre precedente, se ti ricordi, nell'82, Villeneuve-Pironi. Sì, me lo ricordo. Che poi ha generato quello che ha generato Zolder e così via. Ivano, ti ringrazio, ma devo chiudere. Se vuoi ricominciamo domani, perché sei convocato tu come tutti gli altri ogni giorno dalle 2 alle 3. Grazie a Franco Piantini, autore di questo programma, Filippo Aureggi in regia. Ciao a tutti.